Fare l'amore è normale, ma farlo con te è mondiale. Fare l'amore con te, io lo farei sotto il sole. Fare l'amore con te.